si mangia la zitta, che si mangia la zitta, che si mangia la zitta la prima sera. Che si mangia la zitta la prima sera. Nu panare de pere galante, nu panare de pere galante, nu panare de pere galante, sempre la zitta alla tavola innanzi. Nu panare de pere galante, sempre la zitta alla tavola innanzi. Che si mangia la zitta, che si mangia la zitta, che si mangia la zitta alle tre sere. Che si mangia la zitta alle tre sere. E tre pesci che vanno nuotando e due lepri ben correnti. Nu panare de pere galante, nu panare de pere galante, nu panare de pere galante, sempre la zitta alla tavola innanzi. Nu panare de pere galante, sempre la zitta alla tavola innanzi. Tu si sa più allegre cori, via tu capi petta la bucheri, la pipetta ci porta i dinari, la pipetta ci mori lucori, sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno. Sarebbe tutti i giorni festa nazionale.